Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in una puntata che come sempre venerdì conterrà, ahimè, la poco invidiabile classifica della settimana. Di cosa parleremo oltre che, insomma, della classifica sugli sprechi di denaro pubblico? Beh, il G7 di Tallinn non è uscito, non sono usciti documenti, diciamo, epocali, però il premier Gentiloni, poi lo ascolteremo nella seconda ora, ha ricordato che i singoli paesi stanno cercando di avere una cooperazione rafforzata sul tema della web tax, quindi dopo che il documento firmato congiuntamente da Italia, Francia, Germania e Spagna aveva chiesto sostanzialmente che si mettesse ordine a quella che è una concorrenza assolutamente interna all'Unione Europea e soprattutto con i contorni dell'elusione fiscale per quello che riguarda i grandi colossi del web, ne abbiamo parlato molte volte. E per quello che riguarda le politiche economiche europee, Gentiloni ha anche detto che ora serve uno scatto ambizioso e che il ruolo che l'Italia può svolgere è tenere insieme le proposte di riforma dell'Unione Europea presentate dal Presidente della Commissione Juncker e dal Presidente francese Macron. Il governo, poi si è auspicato Gentiloni che il governo tedesco contribuisca a questa ulteriore spinta dell'Unione Europea, ma sono molte dichiarazioni di intenti. Devo dire che nessuno si aspettava che dal G7 di Tallinn uscissero delle dichiarazioni di altro genere, nel senso che era considerato un vertice non il G7, scusatemi, la Commissione Europea Tallinn, un vertice tutto sommato interlocutorio, questo anche appunto per quello che riguarda l'esserci o meno unanimità tra i 28 paesi sulla web tax. Per quello che riguarda invece un altro tema di cui ci occuperemo, la Catalogna, allora cresce la tensione. Vorrei ricordare anch'io che noi domenica seguiremo con collegamenti in ogni GR con i nostri inviati, soprattutto Sergio Nava, che si recherà a Barcellona da domani, quello che sarà l'evoluzione domenica di un referendum stranissimo, nel senso che Madrid non lo riconosce. Avete letto e sapete che sono state anche blindate le possibili urne e quant'altro, blindate nel senso di non rese accessibili, e si rischia una tensione fortissima. Ma sarà l'occasione nella seconda ora per fare il punto su una settimana che è iniziata con un voto tedesco che ha sorpreso, doveva essere il voto più scontato, la vittoria della Merkel più scontata, quindi le elezioni più scontate a livello europeo, invece ha sorpreso tutti perché la Merkel ha sì vinto, ma deve fare una coalizione di governo, non ha la forza numerica, ha perso ed è arretrata molto come percentuale, l'SPD è crollata, l'abbiamo già commentato, mentre Alternative for Deutschland è salita a un livello mai raggiunto prima. E si chiude, diciamo, questa settimana con questo referendum spagnolo, o meglio, scusatemi, referendum catalano, secondo Madrid non esiste e non è proprio un referendum. Devo dire che quello che ha sorpreso molti osservatori è la totale così non reazione, sostanzialmente la totale indifferenza dei mercati finanziari a questo. Ora, per carità, sappiamo che da anni le elezioni politiche non sono necessariamente un elemento per muovere mercati e investitori, però sarà interessante capire qual è il ragionamento che viene fatto e a quali, come si diceva una volta, fondamentali guardano i mercati se non guardano quelli di carattere politico. A questo proposito adesso partiamo con le notizie in breve, perché ci sono anche notizie di carattere congiunturale economico sia a livello europeo che a livello italiano. 349-238-6666 resta come sempre il numero per gli sms, per WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta del programma su Facebook. Come sempre però, prima le notizie di carattere internazionale. Gli Stati Uniti hanno tra l'altro oggi interrotto a scadenza indefinita il rilascio di visti a Cuba e hanno fermato anche i viaggi delle delegazioni ufficiali. Questo in seguito ad attacchi contro il personale americano, in seguito a timori di possibili attacchi negli hotel dell'isola che metterebbero a repentaglio la salute dei viaggiatori. Per quello che riguarda il vertice di Tallinn 27, ho detto già, insomma, c'è stata una bilaterale Gentiloni-Merkel a margine del summit sul digitale, che aveva come oggetto il summit proprio la web tax. Andando invece alla parte di carattere congiunturale economico europea, allora, per quello che riguarda la Brexit, oggi Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione europea, gelando un po' alcuni ottimismi di questi giorni, ha detto che a fine ottobre non avremo progressi sufficienti a meno che non succedano miracoli. Questo come commento su come stanno andando i negoziati Bruxelles-Londra sulla Brexit. Per quello che riguarda la Gran Bretagna nello specifico, il PIL del secondo trimestre è stato rivisto in calo dall'1,7 all'1,5%. Si tratta del tasso di crescita in Gran Bretagna più basso dal primo trimestre del 2013. L'1,5 è su base annua, chiaramente non è la crescita del trimestre. Per quello che riguarda invece l'inflazione nell'Unione Europea 19 è stabile all'1,5%. La componente con il tasso più elevato è l'energia, più 3,9%, seguono alimentari, alcol e tabacco, più 1,9%, e servizi, più 1,5% come prezzi rispetto all'anno prima. Ma a dimostrazione che, insomma, la tanto attesa crescita dell'inflazione buona da parte della Banca Centrale Europea per iniziare a ridurre il QE e soprattutto e aumentare leggermente i tassi di interesse non sta arrivando, nel senso che siamo ancora all'1,5%, e tra l'altro la componente che più si muove è quella energetica, mentre l'inflazione buona è quella che vede muoversi i prezzi al consumo dei beni tipo a maggior acquisto, quando denota, come abbiamo spiegato molte volte, che sono tornati i consumi, e quindi aumentando un po' i consumi si creano tensioni sui prezzi e aumentano anche i prezzi. Per quello che riguarda l'Italia, visto che c'è il dato anche sull'Italia, a settembre addirittura abbiamo fatto meno 0,3% sul mese. Comunque l'inflazione settembre 2017 su settembre 2016 è dell'1,1%. Perché? Perché c'è stato, quindi bassa, bassina, un calo dovuto al ribasso dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti, quindi sono, diciamo, prezzi non liberi di fluttuare, non da mercato di beni di consumo, anche un rallentamento dei beni energetici regolamentati, sono molto spesso infatti settori regolamentati questi. Andando a guardare l'inflazione core, ossia quella dei prodotti a maggior frequenza d'acquisto, il carrello della spesa come lo chiama l'Istat, i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa della persona aumentano dell'1,2 su base annua. Soprattutto crescono i beni alimentari non lavorati, più 2,2%. I vegetali freschi hanno avuto un rialzo significativo, più 5% sull'anno. E poi oggi è arrivata anche il dato del Centro Studi Confindustria: produzione industriale è cresciuta a settembre dell'1%. E soprattutto al netto del diverso numero di giornate lavorative aumentate in settembre rispetto a settembre del 2016 del 3%. E anche Prometei ha rivisto al rialzo delle stime per la crescita del PIL e porta all'1,4%. Per quello che riguarda invece il governo e gli stanziamenti per le politiche per la famiglia e l'inclusione sociale, oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, intervenuto alla terza conferenza sulla famiglia, ha precisato che per il 2017-2018 sono già stati stanziati circa 5 miliardi l'anno per la famiglia e le politiche per l'inclusione sociale, e ha ribadito che nella legge di bilancio vi saranno risorse per continuare il consolidamento dei conti, sterilizzare le clausole, quindi il rischio aumento IVA, e risorse limitate per la crescita inclusiva. Le risorse complessivamente allocate a queste misure nel 2017 ammontano a 5 miliardi e 50 milioni. Le risorse che si prevede saranno allocate nell'anno che viene sono di 5 miliardi e 100 milioni. Si può fare di meglio sicuramente in termini di risorse, si può fare di meglio anche in termini di allocazione. Io mi auspico che negli anni a venire ci sia una continuazione della spinta alle riforme strutturali, nella spinta all'utilizzo efficiente della finanza pubblica, pur in un contesto di vincoli importanti dati soprattutto dall'esposizione ai mercati, ma in una situazione in cui il reddito, la crescita inclusiva possa diventare sempre più un modo di essere dell'economia e un principio guida della politica economica. Ancora due notizie. Da un lato la dichiarazione del presidente di Confindustria, devo dire che già si era espresso anche ieri il vicepresidente di Confindustria Pedrollo sulla l'estensione del sequestro preventivo ai casi di presunti reati previsti dalle nuove norme del codice antimafia, che equipara l'attività di corruzione con quella mafiosa, e soprattutto, secondo il presidente Confindustria, stravolge i principi costituzionali e, per l'alta discrezionalità che concede, mira il bene assoluto della certezza del diritto. I danni che ha continuato Boccia che potrebbero derivare con il nuovo possono essere rilevanti con il nuovo codice antimafia, dove si equipara l'attività degli imprenditori a quella dei delinquenti. E poi invece, per quello che riguarda Roma, già i nostri GR24 l'hanno ricordato, l'organismo di revisione economica e finanziaria a cui si appoggia, che ha chiesto la certificazione il sindaco di Roma Raggi, sul bilancio, ha bocciato il bilancio consolidato del Campidoglio. Il parere negativo crea un problema, perché l'OREF, si chiama così l'organismo, nelle conclusioni della sua relazione non ritiene che le risultanze esposte nel bilancio rappresentino in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo amministrazione pubblica di Roma Capitale, ed esprime parere non favorevole all'approvazione del bilancio. I revisori invitano l'ente ad adottare i provvedimenti di competenza, potenziando le strutture preposte al controllo e alla verifica dei rapporti con le società partecipate. Si è arrabbiato molto l'assessore al bilancio di Roma Gianni Lemmetti. Approveremo il bilancio consolidato, OREF fa politica. La nostra amministrazione approverà il bilancio consolidato 2016 di Roma Capitale. E anche perché il bilancio consolidato deve essere deve approdare in aula domani, e dovrà contenere dentro anche i conti in rosso di ATAC e il bilancio di AMA. Abbiamo già spiegato che nel momento in cui viene fatto il concordato su ATAC, tu devi anche iscrivere, siccome vengono bloccati i crediti che vanti il comune di Roma, circa 400 milioni di euro che vanta come crediti nei confronti di ATAC, questi vengono congelati, quindi questa cosa qui un impatto sul bilancio ce l'avrà. Dopodiché faccio notare che l'OREF è un organismo non imposto dall'esterno, ma a cui ha fatto riferimento lo stesso sindaco di Roma Raggi. Ora, non è che se l'OREF te boccia il bilancio sta facendo politica, se invece te la prova è un organismo che funziona. Ma comunque andiamo alla nostra poco invidiabile classifica dopo questa notizia, e partiamo anche in questo caso, come è successo altre volte, dai comuni. 3-4-9. Ah, non ho detto i mercati? Ha ragione l'ascoltatore, fermi tutti. Mercati, più 0,40% Milano, più 0,45% Parigi, più 0,80% Francoforte, più 0,60% Londra, invariato il Dow Jones. Tra i titoli, Banca Generali più 2,80%, Fiat Chrysler più 1,70%, Jux più 1,50%, come Generali l'1,30% lo guadagna Terna, l'1% UbiBanca, lo 0,90% ST Microelectronics. Invece, tra chi cede oggi, segnaliamo Campari meno 1,30%, Recordati meno 1,1%, Salvatore Ferragamo meno 0,80%, Exor meno 0,60%, come Leonardo, Banca Mediolanum meno 0,50%, Euro in leggero rafforzamento sopra quota 1,18%, 1,18% e 14%. La classifica della settimana. Allora, partiamo dal quinto posto. Si dice spesso che l'Italia è lunga, è troppo lunga. Io non so quanto sia lunga, ma secondo me invece è abbastanza, l'Italia è abbastanza simile quanto a comportamento e codice della strada, perlomeno l'impressione che riceve sottoscritto quando si muove. Ma non capiamo, chiaramente è un non capire retorico, come sia possibile avere delle cifre così diverse lungo la penisola quando si tratta di incassare le multe. È un vecchio vizio, questo, ed è una vecchia storia, però dobbiamo riproporla. Se non ricordo male, già ce ne occupammo 2-3 anni fa, quando la classifica era appena iniziata, e adesso abbiamo i dati aggiornati. Allora, è vero che il numero dei residenti varia tantissimo, però ci sono alcune cose che già balzano all'occhio anche senza fare il calcolo, ma poi lo faremo. Il Comune di Roma l'anno scorso ha incassato per competenza 96 milioni quasi di euro di multe, quello di Bari 3 milioni e 600 mila. E uno dice, vabbè, Bari è più piccola, attenti. Firenze, che ha una popolazione di poco superiore a quella di Bari, ha incassato 7 volte di più, 26 milioni. Allora, dobbiamo iniziare a ragionare su una categoria quasi alla malaparte, quasi sugli italiani, sui loro vizi regionali. I fiorentini sono nettamente meno corretti nell'utilizzare la macchina dei baresi. Ora, io non so sulla base di quale principio si possa sostenere sta cavolata, ma se vedo che Bari incassa 3 milioni e 600 mila euro di multe e Firenze 26 milioni con popolazione quasi simile e sono 7 volte in più, devo concludere che o il comune di Bari non è capace di incassare multe o non le vuole incassare in alcuni casi, oppure i fiorentini sono terribili alla guida. Ma andiamo avanti, perché non c'è solo questo. Allora, soprattutto i grandi comuni hanno difficoltà a riscuotere le multe, ma per ogni euro dovuto, a parte che il tema delle multe, guardate, non è solo un tema di correttezza civica, che ci mancherebbe, ma è anche un tema economico, perché poi vi leggerò quanto costa ogni minuto di ritardo per le auto parcheggiate in doppia fila. E devo dire che qui la penisola è assolutamente corta. Milano è vicinissima a Roma, basta girare nelle due città e via così. Però restiamo sull'incasso per le finanze pubbliche. Allora, Bolzano per ogni euro di multe arriva a incassare 67 centesimi per ogni euro di competenza, Bologna 54 centesimi, Milano 40 centesimi, poi si scende a Napoli, Bari e Palermo, dove si incassano solo 20 centesimi, già non sono tanti quelli di Milano, 40 su un euro, e lo dice qualcuno che le multe ne ha dovute pagare purtroppo tante. A Napoli, Bari e Palermo si incassano 20 centesimi. Ora, e si arriva poi a situazioni paradossali che adesso vi leggo, perché uno può anche dividere quanto incassato per il numero di residenti. Allora, a Milano l'anno scorso ogni abitante ha pagato in contravvenzioni 90 euro. Devo dire che io tiro sulla media, purtroppo, 90 euro in un anno magari. Però 90 euro per abitante, a Roma 33. Allora, ci sono due motivi. O il motivo è che io e Cruciani, altro noto, diciamo, persona nota per infrangere le regole della civile convivenza automobilistica, facciamo la differenza tra Milano e Roma, oppure c'è un problema, perché non è possibile che a Roma uno paghi 33 euro in media di multe e a Milano 90. A Firenze si torna a 80 euro, quindi, se capisco bene, Milano 90 euro, Firenze 80 euro, Roma 33 euro, più scendi al centro-sud, più sostanzialmente gli automobilisti sono diligenti e rispettano il traffico, rispettano le regole del codice stradale. Infatti Bologna è 68 euro, Napoli e Palermo hanno pagato i residenti 20 euro. E vedi che più scendi, più aumenta il senso civico. Si arriva alla capitale, cioè voglio dire, al mondo, quando uno pensa al senso civico, cosa immagina? Immagina la Svezia, lo dico con massimo rispetto, ma scusatemi, non è accettabile questa cosa, la Svezia, la Svizzera, paesi della Finlandia e Reggio Calabria. Perché a Reggio Calabria ogni residente ha pagato l'anno scorso 7 euro di multa, praticamente niente, meno di un decimo di quanto paghi in media un milanese. Evidentemente a Reggio Calabria non esiste la doppia fila e altri parcheggi. Il problema, ovviamente, al di là della battuta, è diverso. Ci sono comuni che non vogliono, non vogliono, perché insomma riuscirci ci si riesce, e se tu abiti in quei comuni probabilmente ti aspetti anche che prima o poi vengano condonate o arrivi un ravvedimento operoso per le multe. Quanto al costo economico delle nostre cattive abitudini, un calcolo molto semplice: per ogni minuto di lavoro al giorno che uno perde a Roma, sparisce ogni giorno l'equivalente della produzione di 2500 lavoratori, come se chiudesse ogni giorno uno degli stabilimenti più grandi d'Italia. 2500 lavoratori. Se invece uno dovesse supporre che i minuti persi nel traffico per via delle macchine in doppia fila fossero non uno, lo vorrei vedere uno magari, ma almeno cinque, sarebbe come se a Roma venisse cancellata per intero l'attività quotidiana di ATAC sostanzialmente, o di Alitalia, 12.500 lavoratori in meno. E poi se fai il calcolo aggregato, siccome un'ora di lavoro in Italia genera in media 42 euro di reddito, al sud un po' di meno, a Roma diciamo il minuto perso sottrae 140 milioni di reddito l'anno prodotto, a Napoli 40 milioni, a Palermo 35. Andiamo al quarto posto rapidamente, perché oggi l'abbiamo... Andiamo. Allora, io dico una cosa. Se le elezioni regionali siciliane devono essere il test politico, va benissimo e facciamo molti ragionamenti. Spero non siano il test politico di quello che potrebbe capitare a livello economico in vista delle elezioni nazionali di marzo e aprile, perché abbiamo raccontato dei 21.000 forestali regionali, no? E del costo che questo ha avuto in una regione che ha avuto difficoltà a garantire servizi minimi ai portatori veri di handicap. Ricorderete la polemica fatta da PIF e altri attori, PIF, Fiorello, vado a memoria, perché non si riusciva a dare i fondi necessari ai disabili veri, non i disabili finti, che purtroppo diciamo, esistono anche in questo paese, i disabili veri. Però puoi trovare tranquillamente 19 milioni per gli 80 euro. Allora, lo dico perché ne abbiamo vista un'altra, ne abbiamo beccata un'altra, sempre in vista, tanto è quello il motivo, delle elezioni di novembre. Allora, l'ASP, l'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Oh, via libera a poco più di un mese dalle elezioni a una pioggia di soldi per i 1.033 dipendenti dell'ASP di Trapani. Il personale riceverà arretrati per un valore di 1,5 milioni di euro complessivi. Ma voglio dire, veramente quanta grazia. Adesso, proprio adesso, tutti gli arretrati adesso, a un mese dalle elezioni, benissimo. L'accordo che sblocca il contratto integrativo aziendale era stato firmato dall'ASP e dai sindacati il 5 ottobre 2016, un anno fa. Ma la delibera del commissario dell'azienda provinciale Giovanni Bavetta è stata firmata solo in questi giorni. Il provvedimento del commissario attribuisce al personale gli incrementi di stipendio spettanti, era atteso da tempo da dipendenti e sindacati. Benissimo. Quindi questo provvedimento contiene anche gli arretrati dal gennaio 2016, che valgono per circa 1.886 lavoratori. Da settembre, la cosa singolare è questa, i pagamenti avverranno mese per mese, quindi non dovrei aspettare una scadenza unica. Una mossa che molti hanno voluto vedere legata alla campagna elettorale, visto che proprio a Trapani, fra i candidati, c'è l'assessore regionale alla sanità, Baldo Gucciardi, ma è sicuramente una coincidenza, ci tengo a precisare, al quale appunto viene concesso anche un virgolettato nel comunicato ufficiale dell'azienda, cioè l'azienda comunica che pagherà gli arretrati e poi fa un bel comunicato stampa in cui c'è pure la dichiarazione dell'assessore candidato, l'assessore regionale alla sanità, candidato proprio a Trapani, Baldo Gucciardi. Oggi gratifichiamo questi dipendenti. Nel prossimo futuro abbiamo intenzione di aumentare la percentuale di infermieri per ciascun medico in servizio, perché al momento siamo tra le regioni a più basso indice, dobbiamo recuperare questo handicap, ma anche per essere pronti ai nuovi modelli organizzativi per gli ospedali, per intensità di cure e al sempre maggior bisogno di assistere i pazienti cronici. A tutto questo nel comunicato in cui sblocchi gli arretrati? Va bene. Beh, è un discorso programmatico, si sarebbe detto una volta questo. Anche perché è noto che, voglio dire, la priorità nella sanità siciliana era questa, ma ci mancherebbe. E che, insomma, che il problema della sanità siciliana che funziona male è perché è tra le regioni più basso indice di infermieri, di percentuale per gli infermieri per ciascun medico in servizio. Va bene, va bene. Allora, qualcuno mi scrive: bravo Barisoni, è iniziata la campagna elettorale. Ma scusate, dov'è che sto facendo campagna elettorale? Mi sembra che stiamo toccando tutto il paese. È iniziata la campagna elettorale in Sicilia, sicuramente. La mia non c'è perché non sono candidato. Comunque, meteo, pubblicità e poi andiamo su terzo, secondo e primo posto. State ascoltando un programma offerto da Azienda Green Premium di Dolomiti Energia. Dalla nostra acqua, l'energia per la tua azienda. Focus Economia. Oh, andiamo adesso a terzo, secondo e primo posto. Due risposte a chi continua sulla Raggi. Guardate che non ho deciso io che l'OREF abbia bocciato il bilancio. Dopodiché, visto che ogni volta che si tocca il Comune di Roma qualcuno mi insulta, abbia coraggio di aspettare, coraggio, scusami, abbia la pazienza di aspettare il primo posto in classifica e poi, se vuole, magari chieda anche scusa, visto gli insulti che tirate. Ah, qua ce l'hai con i grillini, sei in campagna elettorale, aspetti il primo posto in classifica e vediamo se ha ragione lei, può essere, o se invece è un po' prevenuto, o se invece ogni volta che io posso criticare qualunque comune, ma se tocco la Raggi alcuni mi insultano, diciamo secondo per secondo. Ma mi scrivono anche alcuni ascoltatori del Mezzogiorno, dicono: guardi che paragonare Bari e Firenze per i residenti non ha senso, dovrebbe dire quante persone frequentano Firenze e quanti Bari, la lettura dei dati non è il suo forte. Va bene, non sarà il mio forte, però abbiamo diviso poi le multe per residenti, questo si può fare? O immaginiamo che comunque a Bari non arrivino le multe, le paghino solo gli stranieri o i turisti, a Firenze residente, cioè cosa vuol dire? È palese, quando lei ha 7 euro per abitante per residente a Reggio Calabria, 20 euro a Bari, Napoli e Palermo e ne ha 90 a Milano, 85 a Bologna, 80 a Firenze, forse non possiamo dire che il calcolo che è sbagliato, possiamo anche ammettere che ci sono comuni che non sono in grado di recuperare le multe, non le vogliono fare, hanno paura a fare, non gli conviene farle e balle varie, è sempre a trovare una scusa. Allora, andiamo al terzo posto. La mitica stazione dell'alta velocità inaugurata in pompa magna, quella di Afragola. Allora, sta succedendo di tutto. L'hanno inaugurata, poi hanno subito bloccato il bar perché non aveva le autorizzazioni. Ma adesso va anche peggio perché praticamente la porta del sud, la stazione ferroviaria di Afragola, costata oltre 100 milioni di euro, progettata dall'architetto iraniano Zaha Hadid, inaugurata il 6 giugno, che ha un ruolo anche importante a livello, diciamo, strutturale e infrastrutturale, scusatemi, soprattutto perché deve servire come snodo tra l'alta velocità nord-sud e l'alta velocità sud, che è tutto ancora da fare, però insomma era entro il 2022 diventare appunto la rete di snodo, doveva essere il collegamento e lo snodo tra le due reti ferroviarie ad alta velocità. Che è successo? Allora, sta indagando la procura di Napoli Nord, coordinata da Francesco Greco. Dunque, prima si era detto che sotto la stazione c'erano rifiuti tossici, in particolare occultati nelle fondamenta del parcheggio, che per questo è stato sequestrato, quindi il parcheggio è sequestrato già a fine giugno. Il bar è sequestrato perché non aveva le autorizzazioni previste. Manca solo che sequestrino i bilanci. No, ma c'è un altro aspetto adesso. Che c'è un filone d'inchiesta che punta ad accertare le autorizzazioni a costruire, cioè forse non potevano nemmeno costruirla. I magistrati cercano di capire infatti se l'opera sia abusiva o meno, cioè stiamo parlando non della casetta degli attrezzi, stiamo parlando della stazione da 100 milioni di euro, della Fragola dell'architetto della famosissima e compianta architetta Zaha Hadid. Allora, stanno infatti investigando soprattutto procuratore Giovanni Corona e anche procuratore aggiunto Domenico Airoma sugli accertamenti sulle autorizzazioni a edificare nei terreni di Afragola dove sorge la porta del sud. Stanno prendendo le carte bollate presentate all'epoca dei lavori 4 novembre 2003 con i piani regolatori del comune dell'area nord e quelle relative alle prescrizioni fabbricati. Insomma, devono andare all'inizio della vicenda, 14 anni fa, quando furono autorizzati i lavori. Già nel 2003 ricordo che i lavori subirono uno stop perché ritrovarono reperti archeologici. Poi l'appalto continuò solo per altri 5 anni perché una delle società impegnate consumò tutti i fondi stanziati alle Ferrovie dello Stato, che furono vittime in questo caso, e poi è fallita. Nel 2014 viene riattivato con un bando che il bando prevedeva l'obbligo di poter partecipare a realizzare i lavori in maniera molto veloce. 15 giorni dopo il passaggio invece del primo treno arriva la scure amministrativa, il bar viene chiuso perché privo di autorizzazione e il parcheggio sotto sequestro per rifiuti tossici. Pensate un po', cioè, adesso come adesso la stazione di Afragola sembra in realtà un pozzo dell'AGIP, perché stanno facendo i carotaggi, hanno nominato un perito geologo per andare a fare le prime trivellazioni per capire se gli scarti di materiale tossico possono aver raggiunto anche la falda acquifera. La stazione non è ancora completa, è funzionante, c'è un piccolo dettaglio che quando piove ci piove dentro, quando c'è molta pioggia, però voglio dire, rispetto a questo chi se ne frega, no? Cioè, meglio qualche goccia d'acqua. 100 milioni. Andiamo al secondo posto della classifica, andiamo veloce. Qualcuno dirà, ecco che lei ce l'ha con Emiliano, ma non ce l'ho con Emiliano, non mi frega nulla, però scusa. A Bruxelles, dove tra l'altro in materia di sprechi e costi non devono insegnare niente a nessuno, stanno per inaugurare il nuovo Consiglio europeo, ci sono voluti 12 anni, dovrebbe essere inaugurato quest'anno. In Puglia invece non sono riusciti a farlo in 15 anni. Che cosa? La nuova sede del Consiglio regionale pugliese. A parte il fatto che io avrei abolito qualunque progetto per le nuove sedi dei consigli regionali. Riduci i consigli regionali, non hai bisogno di sedi nuove. Questo vale anche per Milano, lo dicevo in tempi non sospetti. Per cui, e facciamo anche delle puntate nella classifica sui costi del neopirellone. Ma dico, a Bari. Nuova sede del Consiglio regionale, da 15 anni, il progetto è del 2002, poi dal 2002 i lavori iniziano nel 2012, non sono ancora finiti. Progetto che doveva costare 40 milioni, arriverà a costarne 60, cioè 20 milioni in più. Ma voglio dire, ma se un qualunque impiegato, dipendente, quadro, manager, dirigente facesse nella sua attività, nella sua impresa, un calcolo del genere, sarebbe licenziato in tronco. Ma come? Ci metti 12 anni e i costi, invece che essere 40, vanno a 60? Che non è un dettaglio. È il 50% in più. Comunque. Allora... e la cosa più bella, e questo è un caso, diciamo, di meta-indagine, un caso quasi tra il filosofico e lo psicanalitico, perché la regione Puglia sta indagando su se stessa. E qui è l'alter ego della regione, che va a scoprire, si guarda allo specchio, sta indagando su se stessa, dopo che l'azienda che si è aggiudicata i lavori ha presentato una serie di riserve, quindi la richiesta di ulteriori pagamenti per altri milioni di euro. Vogliono capire che cosa? Vogliono valutare l'operato degli uffici in tutti questi anni. Allora, l'appalto viene vinto nel 2011 dalla Ati De Bar, dalla Monsud e dalla Guastamacchia. I lavori però vengono gestiti prevalentemente dalla Guastamacchia. I problemi iniziano da subito. Nel 2012 è necessaria una bonifica per eliminare gli ordigni presenti nel terreno, ordigni della Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo nei cantieri si sono susseguiti 3 RUP, responsabile unico del procedimento. Il progetto originario viene modificato con 4 varianti, 4, ma che stai costruendo, porca miseria, un palazzo della regione, 4 varianti. Lo voglio un po' più dritto, lo voglio un po' più curvo, lo voglio un po' più alto, lo voglio un po' più basso. A maggio del 2015 l'allora presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna promette la chiusura del cantiere massimo entro giugno 2016, col cavolo. Nel frattempo arriva alla guida della regione Michele Emiliano e la presidente del Consiglio c'è Mario Loizzo. Proprio Loizzo nell'estate scorsa scopre gravi ritardi, così, palazzo non c'è ancora. Allora promette, verrà consegnato a fine 2017. Adesso però è lo stesso Loizzo che dice: guardate, ci sono nuovi ritardi nei lavori. Avevamo programmato il trasferimento degli uffici della vecchia sede di via Capruzzi a via Gentile nel periodo di pausa natalizia, ma temo che non riusciremo a farlo prima della prossima Pasqua. Speriamo che la Pasqua non cada tardi, Loiz, perché se cade tardi avete un mese in più. Intanto, per accelerare i lavori, il Consiglio regionale proverà a gestire direttamente l'appalto per il mobilio. Andate all'IKEA. Andate all'IKEA. Cioè, 12 anni, 15 anni che ci lavorate sul tuo palazzo e adesso ragionate se gestire direttamente l'appalto per il mobilio. Andate all'IKEA. O IKEA, o non voglio fare pubblicità, a qualunque centro commerciale per arredare. Ci sono anche divergenze o scontri tra i dirigenti regionali sull'andamento dei lavori. Proprio queste divergenze hanno portato all'inchiesta interna degli uffici regionali. Bisogna fare una verifica sulle riserve presentate dall'azienda in riferimento al nuovo aumento dei costi d'opera. Abbiamo dovuto inserire nuovi parcheggi, spiega Gioacchino Guastamacchia, amministratore unico dell'impresa. In più sono state progettate anche le stanze per i capigruppo, che prima non erano previste. Ma porca miseria, una volta che c'era una cosa giusta, niente stanze per i capigruppo, open space anche in regione. No, le stanze per i capigruppo alla regione Puglia. E certo, certo. E poi va aggiunto che negli ultimi due anni nel cantiere i lavori sono andati avanti con molta più rapidità. Non a caso il primo piano del palazzo è praticamente finito. Io non ce ne posso più. Ma come fa di una roba del genere? È dal 2002 che ci lavorano, hanno finito. Ma cosa fate? Il palazzo regionale, come certe case che si vedevano nell'Italia, che il primo piano era finito, gli altri ancora con i mattoni rossi, mancavano le finestre. Lavoriamo così? Ma va bene. L'azienda ha presentato riserve per 24 milioni di euro, ma credo che alla fine il conto sarà di meno della metà. E poi la fontana, che c'è sempre una fontana, qualcuno ricorderà Craxi, la fontana qua a Milano. La fontana che doveva essere collocata al centro del prefabbricato non si farà più. Dicevo, bene, dai, almeno una spesa in meno inutile, che te ne fai della fontana? No, perché lì sorgerà un anfiteatro da 250 posti, leoni e gladiatori inclusi o no? O extra budget? E così, se la spesa totale nel 2012 era di 40 milioni, l'anno scorso 50, ora Guastamacchia stesso dice saranno 60, secondo me è tempo che lo finiscano, anfiteatro, gladiatori, leoni e bighe, arriveremo a 70 milioni. Nel frattempo bisogna pure aggiungere le spese per l'affitto che la Regione Puglia paga per essere ospitata negli uffici di via Caprizi. E quindi mezzo milione di euro in più di locazioni passive, visto che ogni anno la spesa ammonta a 1,5 milioni di euro. Nulla comunque in confronto al risarcimento danni da 18 milioni presentato dallo studio ingegneristico barese di Michele Cutolo, che è arrivato quarto nella gara sulla progettazione del nuovo consiglio, e su cui la Cassazione ha accertato la turbativa d'asta. Quando aprirà sto cavolo di palazzo della Regione Puglia non saranno finiti i guai pugliesi, italiani, perché nel palazzo ci sono 15.000 metri quadri di vetrate. Facciamo una scommessa che fra qualche anno finirà in classifica, se ci sarà ancora la classifica, sottoscritto, i costi di pulizia di 15.000 metri quadri di vetrate. Ma non potevate farlo con un po' meno vetro? Ma che è? Problema? Mica sei in Scandinavia che ti manca la luce d'inverno, sei a Bari e fallo normale. 15.000 metri quadri di vetrate, anfiteatro a 250 posti, e purtroppo ci siamo persi la fontana, ma abbiamo recuperato almeno gli uffici per i capigruppo. Uffici per il capogruppo, vai, traffico. Focus Economia. Allora, con buona pace di chi dice che noi attacchiamo la Raggi volutamente perché siamo in campagna elettorale, ma quale campagna elettorale? Io, se potessi chiudere sta rubrica del venerdì, sarei l'uomo più felice del mondo, ma non come conduttore, come cittadino che paga le tasse, trattenuta alla fonte. Allora, invece vediamo se chi ci accusa di essere contro i grillini mantiene la sua accusa anche adesso. Andiamo al primo posto. And the winner is... The winner is, o the winner are, dovevamo cambiarlo sto stacchetto, i 16 ex consiglieri del PD del Lazio. Qui vedete, allora adesso scrivetemi che attacco il PD e che ce l'ho col PD, per favore. Allora, tutti rinviati a giudizio, le spese pazze in regione, il GUP del Tribunale di Roma ha rinviato a giudizio 14 ex consiglieri del PD della scorsa legislatura, accusati a vario titolo di abuso d'ufficio, truffa e peculato. E quindi l'ex presidente del gruppo PD in regione Sterino Montino, oggi sindaco di Fiumicino, l'ex tesoriere Mario Perilli, e poi Tonino D'Annibale, Enzo Foschi, Claudio Mancini, Marino May, Giuseppe Parroncini, Carlo Umberto Ponzo. A processo anche altri che nel frattempo hanno fatto carriera e sono diventati senatori, come Bruno Astorre, Carlo Lucherini, Claudio Moscardelli, Francesco Scalia e Daniela Valentini, e i deputati come Marco Di Stefano. Due i tipi di accusa: uno, l'assunzione illecita di portaborse con un danno per le casse erariali della regione da un milione e mezzo di euro. Tutti e 14 hanno assunto con contratti di collaborazione persone di fiducia e avrebbero dovuto pagarli personalmente, invece l'hanno scaricati. Tra l'altro privi della natura altamente qualificata richiesta. Addirittura insomma, i consiglieri Mancini hanno speso 190.000 euro e Moscardelli 181.000 euro. Secondo filone di inchiesta riguarda invece i pagamenti ad alcune associazioni fatte con i soldi provenienti sempre dalle casse del gruppo regionale. A rischiare di più è l'ex presidente del gruppo Esterino Montino e poi il tesoriere Mario Perilli e la sua segretaria Maria Assunta Turco, accusati di truffo e peculato. Usavano i soldi, per esempio, quotidiano online Nuovo Paese Sera. Gli arrivano 64.000 euro in 11 bonifici, ma non viene mai realizzata alcuna attività, nonostante la società stessa abbia messo 11 fatture con la causale pubblicazione materiale informativo. In cambio di quei finanziamenti, però, viene assunta come segretaria amministrativa a Nuovo Paese Sera online per un anno e mezzo la figlia di Perilli, per cui l'ex tesoriere adesso dovrà anche difendersi con l'accusa di corruzione. Ma prima del GR24 vorrei lasciarvi con un ricordo, perché Esterino Montino noi lo trovammo qualche anno fa nella nostra classifica. Era il settembre del 2012 quando raccontammo, durante l'inchiesta per le spese pazze della Regione Lazio, che l'allora capogruppo del PD alla Regione Lazio, per giustificare 740.000 euro, Esterino Montino, spesi in manifesti e 100.000 euro spesi in convegni, disse e giustificò anche 4.500 euro spesi in un'enoteca, ma manco se te la bevi tutta. E sapete come li giustificò? Disse: a Natale abbiamo fatto regali ai bambini senza reddito. Che cosa gli hai regalato? Il whisky, Montino! Ai bambini, l'amarone, il Brunello, 4.500 euro in un'enoteca come regali ai bambini senza reddito, e quindi uccidiamoli subito di cirrosi epatica. GR24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Afectuoso para nuestro amigo Pino Enseño y a todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24. Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Enseño, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss! Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Enseño y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto. Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Azienda Green Premium di Dolomiti Energia. Dalla nostra acqua, l'energia per la tua azienda. Focus Economia. I wanna be free. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, molti messaggi. Un ascoltatore ha fatto il calcolo di quanto è il vetro utilizzato quando arriverà al palazzo, al secondo posto della classifica, al palazzo della Regione Puglia. 15.000 metri quadrati di vetro corrispondono a un ettaro e mezzo. Oh. E chi lo pulisce? Questo è il punto. Allora, andiamo invece, vabbè, a parte, prima guarda casa tua, idiota. Guarda, io ho guardato a casa mia, ma non ce l'ho un ettaro e mezzo di vetro, onestamente. E quindi, e comunque stiamo parlando, al di là della battuta, di soldi pubblici, di soldi pubblici. Come sempre cerchiamo di tirarci su il morale. Giovanni Muscarà, fondatore di Viva Voce, buonasera. Muscarà? Sì, ci sono, buonasera. Buonasera, salve. Buonasera. Okay. Se lei fonda Viva Voce e non mi sente, abbiamo un problema subito. Allora, Muscarà, che cosa è Viva Voce? A parte il fatto che il copyright pensavo fosse già preso, che cos'è Viva Voce, quando è nato, quanti anni ha e chi vi ha aiutato? Sì, ok, siamo nati nel 2011 e siamo un centro specializzato in balbuzie. È una realtà nata dalla mia esperienza, perché io fin da bambino, per dire due o tre parole, ci mettevo tre quarti d'ora circa. I miei genitori mi hanno portato a fare qualunque tipo di corso possibile ed immaginabile. Quando poi ho vissuto in Inghilterra per un po' nel 2011, ho cercato anche lì delle soluzioni, un qualcosa, ma non l'ho trovato. Mi veniva sempre proposto qualcosa relativo allo star calmo, allo star tranquillo quando io sono un esaurito cronico, un esagitato, oppure mi proponevano delle tecniche in cui si doveva parlare in maniera un po' meccanica, basata sul principio del canto, ovvero sempre cose che poi andavi fuori nella vita vera e non riuscivi, come dire, ad applicarle. Certo. E quindi, disperato, ad un tratto mi sono detto: porca miseria, ci proverò io. E quindi da una semplice intuizione, ovvero che non fosse semplicemente un problema di voce, ma di controllo motorio, ho incominciato, come dire, a collaborare con numerosi fisioterapisti, neurologi, logopedisti, ed insieme abbiamo appunto sperimentato una nuova metodologia per il trattamento del problema. Lei cosa faceva prima, Muscarà? Io ero consulente in ambito finanziario, facevo proprio fusioni tra banche e società finanziarie. Poi mi ero trasferito in Inghilterra proprio per continuare con questo lavoro. Con il mio CV mi chiamavano tantissime banche d'affari, il problema è che quando poi mi presentavo lì era davvero un disastro. Quindi con il mio background non c'entra molto, ma quello che c'entra è proprio la mia fame, il mio desiderio di cercare di avere una vita migliore. Bravo Muscarà, per lei e anche per chi ha lo stesso problema da risolvere. Senta, chi l'ha aiutata e quanto fatturate e quanti siete? Sì, quindi nel 2011 ho cominciato in Inghilterra con il sogno di fare il centro più grande del mondo. Subito dopo mi sono accorto che era una cosa da fare step by step, e quindi sono ripartito da Milano presso un incubatore di startup che si chiama Fondazione Filarete, fondato da Fondazione Cariplo, Intesa San Paolo ed altre realtà. Nel 2015 poi sono entrati, hanno sposato il progetto alcuni soci privati ed un fondo, Ligure Capital, che ci hanno finanziato con circa 350.000 euro. Ad oggi siamo circa 7 fissi, 7 stabili e poi tutta una serie di collaboratori tra fisioterapisti, logopedisti aiutiamo ogni anno centinaia di persone. Pensi che settimanalmente stiamo dietro a circa 150 tra bambini, ragazzi e adulti. Il nostro allievo più grande ha 65 anni. Bella, bellissima cosa. Senta, quindi riuscite già a fatturare o siete ancora nella fase, diciamo, di raccolta fondi startup? Sì, fatturiamo già diverse centinaia di migliaia di euro. È chiaro che stiamo facendo una serie di investimenti, perché per poi poter andare come il sogno originario a livello internazionale, poter portare questo centro nel mondo, ci vogliono tutta una serie di precondizioni, soprattutto a livello di investimenti in ambito tecnologico. Stiamo cercando di realizzare un'applicazione per il trattamento della balbuzie, che sarebbe qualcosa di unico al mondo, e quindi stiamo davvero investendo, come dire, tutto quello che abbiamo. Senta, lei quanti anni ha, Muscarà? Io ho 35 anni. E non ho capito i collaboratori, forse me lo sono perso io. In quanti siete in questo momento? Siamo circa 27 e dopo tutta una serie di collaboratori. Sette vuol dire assunti? Sì, sì, sì, c'è una persona a tempo indeterminato, tre persone in apprendistato, poi abbiamo vari professionisti appunto con partita IVA in quanto psicologi, logopedisti, cioè c'è certo. Un team abbastanza variegato, diciamo. Senta, a questo punto quando è che, non dico il break even, ma quando è che inizierete a vedere dei margini, fatturato, ricavi? L'anno prossimo, la nostra intenzione è l'anno prossimo, cioè se non ci fossero tutti questi investimenti in ambito cioè sulla tecnologia che stiamo cercando di sviluppare, saremmo già rientrati forse l'anno scorso. Però il nostro obiettivo è, devo dire che i miei soci condividono questo, non è semplicemente l'idea di star bene, guadagnare i nostri soldini, ma quello proprio di andare a competere nel mondo, ed evidentemente bisogna fare sacrifici e siamo tutti disposti a farli. Anche i miei soci fortunatamente non mi hanno messo la pressione, entro 3 anni vogliamo subito vedere qualcosa. Fortunatamente ho trovato delle persone lungimiranti, anche perché non si tratta di produrre un paio di scarpe, con tutto il rispetto per chi fa scarpe, ma di andare ad impattare sulla vita delle persone, sulla certo. qualità della vita. Ma guardi, i sacrifici, io qui ripeto quanto ci disse tempo fa Mauro Magatti, sociologo, preside della Cattolica, sacrificio non è una brutta cosa, lo spiego ogni tanto ai figli e ai giovani. Il sacrificio deriva da sacro, quindi fare un sacrificio vuol dire rendere sacro il rapporto con la cosa che sta facendo, quindi un sacrificio per la sua attività vuol dire rendere sacra, diciamo, anche se si può usare ancora questo termine, quella che è la sua iniziativa di impresa, quindi renderla una cosa alta, non è una cosa negativa, sacrificio. E sbagliamo noi genitori a educare i nostri figli con l'idea che il sacrificio sia sempre qualcosa di male. No, rendi sacro quello che stai facendo, così come un padre che non si è mai sacrificato per il suo figlio è un cattivo padre, anche un imprenditore che non si sacrifica per la sua attività forse non crede tanto nell'attività. In bocca al lupo a lei, Muscarà, ai 7 suoi dipendenti, e in bocca al lupo anche alle 150 persone che ogni settimana assistete, nell'attesa appunto che iniziate anche a vedere i risultati economici di questa bellissima iniziativa. Grazie ancora a Giovanni Muscarà, fondatore di Viva Voce. Allora, no, non c'è Sapelli, abbiamo già avuto Sapelli, gli ascoltatori pensano, non è che facciamo tutte le puntate venerdì uguali, sarebbe comodo fare la scaletta così, no, parliamo comunque di mercati parliamo anche di politica e mercati, visto che questo è prossimo e ultimo tema, vi do però la chiusura di borsa di oggi, più 0,50% Milano, più 0,70% Parigi, più 1% Francoforte, più 0,70% scusatemi Londra, invariato il Dow Jones, euro sempre a 1,18 ma 1,18,06. Tra i titoli segnalo oggi bene soprattutto Banca Generali più 3,13%, ci sono acquisti sui finanziari dopo le dichiarazioni della Yellen, c'è un'attesa per il rialzo dei tassi, ne beneficiano i finanziari, banche non solo, Banca Generali più 3,13%, Generali più 1,5%, UbiBanca più 1,40%, e più distaccato Unipol 6 più 0,70%, Mediobanca più 0,50%. E invece per quello che riguarda altri titoli, Telecom oggi è scesa dello 0,70% dopo la decisione sulla Golden Power, da capire quando arriverà la sanzione a Team. Generali, che dopo aver annunciato anche un insieme di investimenti operativi, comunque è appunto tra i titoli migliori. Tra invece i titoli peggiori segnalo, oltre alla già citata Telecom Italia, Campari meno 1,40, Recordati meno 1, Salvatore Ferragamo meno 0,90, Banca Mediolanum meno 0,70, Exor meno 0,65. Migliori peggiori in assoluto, Landi Renzo più 15%, Biancamano più 14,6, Elettra Investimenti più 8,90, Isagro più 8,80%. Il fronte opposto invece vede Ross meno 9,40, Fiera Milano meno 7, Full Six meno 7%, Digitouch meno 6,44%. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, parliamo di politica e mercati dopo il traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Allora, dicevamo, la settimana è iniziata con le elezioni, abbastanza sorpresa in Germania, il calo sensibile della Merkel, il crollo dell'SPD e l'affermazione più forte del previsto di Alternative for Deutschland, e si chiuderà, se vogliamo metterla così, con questo referendum tra i più, diciamo, singolari, strani, mai visti, perché Madrid dice che non esiste, non c'è nessun referendum, i catalani vogliono votare. Noi vi racconteremo tutto con, anche con Sergio Nava, che domani parte per Barcellona, e con lo speciale, oltre che con il GR di domenica, anche con lo speciale che andrà in onda domenica dalle 21 in poi, ammesso che non ci sia bisogno, spero proprio di no in questo caso, di speciali fatti prima per tensioni a Barcellona. Non si capisce ancora molto, però la cosa che ci ha così lasciato un pochino perplessi, cioè incuriosito, al di là della regione più ricca della Spagna o di quello che succede, dei motivi per cui la Germania ricca, che è tornata pre-crisi, vede avanzare la destra e il malcontento anche di carattere economico, è stata la non reazione dei mercati. Ora, non è che vorrei fare il commento alla non notizia, però insomma, di solito bastavano delle volte così stormir di fronde per muovere i mercati azionari, pieni di liquidità e privi di molti spunti, perché non ne vedo tanti in giro, se non la Yellen quando rialza i tassi e Draghi quando si ferma col QE. Chiedo conferma e soprattutto spiegazione al professor Lorenzo Codogno, che è stato capo economista del Ministero del Tesoro a Roma, è visiting professor alla London School of Economics e fondatore della LC Macro Advisor. Buonasera Codogno. Buonasera. Siamo noi che ragioniamo in maniera vecchia e immaginiamo ancora che i mercati si muovono su notizie di carattere politico, oppure mi dia lei la spiegazione, perché insomma non è andato tutto come previsto in Germania, e lo dimostrano le difficoltà poi nel fare la coalizione di governo, e in Spagna sta capitando qualcosa nella regione più ricca, più industrializzata, anche più forte dell'intera Spagna? Beh, una certa reazione l'abbiamo vista lunedì mattina a seguito delle elezioni tedesche. Non è stata una reazione particolarmente forte, perché penso che i giochi siano ancora molto aperti in Germania. In particolare sì, c'è stato uno spostamento a destra. Sembra comunque che chi ha votato per Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra, siano elettori che in genere non partecipavano al voto, quindi alla fine non ha eroso tantissimo dalla base tradizionale dell'elettorato della di centrodestra. Quindi quello che cambia veramente è che, non essendo più una grande coalizione, ma la cosiddetta coalizione Giamaica, quindi con i liberaldemocratici, alcuni pensano che sono molto più euroscettici, diciamo, dell'SPD, e che quindi possano spostare l'ago della bilancia verso una politica ancora più rigida e diciamo non particolarmente favorevole a una ulteriore integrazione a livello europeo, ma questo è ancora, diciamo, tutto da vedersi. Devo dire che i liberaldemocratici, se da un lato è vero che si sono spostati un po' a destra, è vero che hanno creato problemi nel caso della Grecia, dell'utilizzo dell'ISM, del Fondo Salva Stati, è anche vero che comunque è un partito europeista, quindi di fondo. Certo, è un'Europa un po' diversa da quella che si prefigura con il rapporto dei cinque presidenti, però direi che è un rapporto che va costruito ed è ancora presto per trarre delle conclusioni. Ecco, sulla parte invece va visto come evolve la situazione. Un'altra importante novità, devo dire che non c'è più Schäuble, più Schäuble come ministro delle finanze. Anche quello potrebbe cambiare molto, perché dipende da chi andrà sì, a ricoprire quel non posto. Non vorrei che cambiasse ancora in peggio. Per cambierebbe. C'è questo rischio, ma insomma, vedremo come la cosa. No, manca solo che fra qualche mese si vada a ricordare Schäuble come colomba e non come falco, una specie di metamorfosi. Diciamo che allora, se in Italia si spera che le cose cambino in Germania per avere più spazio fiscale, allora scordiamocelo, perché film, le cose non cambieranno in quella direzione. Mentre la speranza che si vada verso un'integrazione più stretta, quella secondo me c'è ancora, e vedremo come la situazione evolve. Mi scusi Codogno, invece la Catalogna, perché adesso mi scrivono molti ascoltatori al 349-238-6666, c'è chi dice viva il referendum catalano, viva Barcellona, voi non afferrate la portata rivoluzionaria del referendum, tutto quello che volete. Poi un altro potrebbe anche porsi la domanda, ma cosa doveva fare Madrid essendo uno Stato, e cosa avrebbero fatto altri paesi? Vedo che Macron poco fa ha detto fiducia in Rajoy. Noi siamo vicini alla Spagna, abbiamo bisogno di un partner forte come la Spagna. Ma secondo lei lì è solo un problema, diciamo, di politica interna, o si rischia veramente la cosa che più è temibile, a mio avviso, il vicolo cieco, ammesso che non ci sia già arrivati, e c'è uno scontro muro contro muro? Ma io spero vivamente che non si vada al muro contro muro, però è una situazione abbastanza pericolosa, perché non è solo la situazione spagnola, questa è una parte di un paese dell'Europa che, sia pure in maniera democratica, sia pure con metodi pacifici, vuole staccarsi dal resto del paese. Questo dal punto di vista democratico secondo me è legittimo ed è giusto, quindi non si può frenare o fermare questa ondata. Dall'altro lato però è anche vero che consentire uno sviluppo di questo genere può portare a effetti a catena in altri paesi europei e a una disaggregazione. L'Europa è per unire i popoli, per unire le persone, per unire gli stati, e non è per dividerli. E quindi diciamo consentire che si vada avanti con questo esperimento è molto pericoloso. Allora, grazie anche a Lorenzo Codogno. Staremo poi a vedere che cosa succederà, lo daremo appunto in diretta. Ripeto, è strano anche per noi coprire un referendum che non è un referendum, perché non esiste il quorum, non è neanche riconosciuto legalmente. Lì, lo dico in maniera giornalistica, la cosa più interessante sarà capire come reagisce l'opinione pubblica catalana, se le manifestazioni, come tutti ci auguriamo, saranno assolutamente pacifiche e quindi manifestazioni vere, o se invece, non ce lo auguriamo, si dovesse arrivare anche agli scontri. Dopo la Catalogna il Veneto, no, dopo la Catalogna Radicchio, se vogliamo metterla in questo modo. Dai, non mi fate parlare del referendum veneto, posso una cosa dirla, una cosa sola? Va benissimo, ognuno può pensarla come vuole, c'è chi è a favore di tenere più soldi, io per esempio sono la penso in maniera radicalmente opposta, che si debbano eliminare anche le regioni a statuto speciale, per cui figuratevi crearne tra virgolette delle altre. Ricordo ai veneti, visto che da lì vengo, una cosa sola: senza i soldi degli italiani tutti, Veneto Banca, i risparmiatori, gli imprenditori, i popolari di Vicenza, Veneto Banca, come per il Monte dei Paschi, come per altre banche, ma lì ne sono usciti tanti di miliardi, venivano fregati definitivamente correntisti, risparmiatori e imprenditori. Quindi ogni tanto i soldi degli altri italiani servono. Grazie, l'auguro di una buona fine settimana soprattutto per chi lo passerà lavorando, e un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.